Buonasera, prima di tutto. Poi una cosa, vedo che i testi vengono distribuiti, quindi di solito c'è un modo particolare a trattare le scritture, quindi non vengono messi per terra, quindi non si scrivono sopra, quindi c'è un minimo di rispetto di solito con il quale questi trattati vengono utilizzati, vengono circolati, cioè manipolati, quindi non abbandonateli nei vari posti, ok? Quindi ovviamente le persone che hanno okay, il loro proprio testo, questo va bene prendere appunti sul testo perché chiarifica il significato, però non fate disegni, cose del genere. E le persone che no, cioè il testo che viene distribuito che non è vostro, quindi non scrivete sopra perché dopo altri lo utilizzano. E quindi in generale visto che il contenuto, quando viene attualizzato il contenuto, okay, la persona si alza verso grandi livelli di felicità, okay, anzi può essere anche separata definitivamente dalla felicità. Quindi tenendo questo in mente, il testo, per quello che rappresenta, viene trattato con grande considerazione. Ok, quindi Sutra del Cuore, chi è che ha legge. Quindi di solito si incomincia con la lettura del Sutra del Cuore che trovate nel libretto Preghiere prima degli insegnamenti, a pagina 4. Dopo facciamo facciamo il rifugio, generiamo la motivazione corretta e poi andiamo avanti. Vai. Mi posta tre gioielli su Supri. te, così Così una molto volta di giunti. Bhagavan di Bhagavan Manam, Nandava Chagri, Kishire sulla sulla montagna montagna picca dei Pindika Bodhi, Cattolica, Siamo Vastasanga, Gadimona Chimba Vastasanga Sangha di di Bodhisattva. Bodhisattva. In quell'ora L'occasione il il Bhagavan Bhagavan era Nanda, assorbito nel poiché Samadhi Vinisumara sulle sulla categorie categoria dei dei fenomeni, fenomeni, chiamato chiamato percezione percezione profonda. profonda. Contemporaneamente Bodhisattva Contemporaneamente Mahasattva Bodhisattva Avalokiteshvara Mahasattva sta applicandosi Avalokiteshvara sta proprio applicandosi proprio nella nella pratica pratica della della profonda profonda perfezione perfezione della della saggezza saggezza e e vedi vedi anche anche i i cinque cinque aggregati aggregati che che mi mi vuoti vuoti in intrinseca l'intrinseca natura. natura. Poi, Poi, tramite tramite il il potere potere del del Buddha, Buddha, il il venerabile venerabile Shariputra, Shariputra, così così disse disse al al Bodhisattva Bodhisattva Mahasattva Mahasattva Ariyavalokiteshvara: Ariyavalokiteshvara: come come deve deve addestrarsi addestrarsi ogni ogni figlio figlio di di lineaggio lineaggio che che desideri desideri impegnarsi impegnarsi nella nella pratica pratica della della profonda profonda perfezione perfezione della della saggezza? saggezza? Così Così egli egli parlò parlò e e il il Bodhisattva Bodhisattva Mahasattva Mahasattva Ariyavalokiteshvara Ariyavalokiteshvara rispose rispose allora allora al al venerabile venerabile figlio figlio di di Saradvata: Saradvata: Shariputra, Shariputra, ogni ogni figlio, figlio, figlio figlio del del lineaggio lineaggio che che desideri desideri impegnarsi impegnarsi nella nella pratica pratica della della profonda profonda perfezione perfezione della della saggezza, saggezza, applicarsi applicarsi nel nel seguente seguente modo. modo. Apprendendo Apprendendo correttamente correttamente e e ripetutamente ripetutamente anche i anche i cinque cinque aggregati aggregati come come vuoti vuoti in in intrinseca intrinseca natura. natura. La La forma forma è è vuota, vuota, la la vacuità vacuità è è forma, forma, la la vacuità vacuità non non è è altro altro che che forma, forma, è è la la forma, forma, non non è è altro altro che che vacuità. vacuità. Allo Allo stesso stesso modo modo sono sono vuote vuote sensazioni, sensazioni, discriminazioni, discriminazioni, fattori fattori di di composizione composizione e e coscienza. coscienza. Similmente, Similmente, Shariputra, Shariputra, tutti tutti i i fenomeni fenomeni sono sono vacuità, vacuità, sono sono privi privi di di caratteristiche, caratteristiche, non non sono sono prodotti, prodotti, non non cessano, cessano, non non sono sono contaminati, contaminati, non non sono sono privi privi di di contaminazioni, contaminazioni, non non diminuiscono diminuiscono e e non non crescono. crescono. Perciò Perciò Shariputra, Shariputra, nella nella vacuità vacuità non non c'è c'è forma, forma, né né sensazione, sensazione, né né discriminazione, discriminazione, né né fattori fattori di di composizione, composizione, né né coscienza. coscienza. Non Non c'è c'è occhio, occhio, né né orecchio, orecchio, né né naso, naso, né né lingua, lingua, né né corpo, corpo, né né mente. mente. Non Non ci ci sono sono forme forme visive, visive, né né suoni, suoni, né né odori, odori, né né sapori, sapori, né né oggetti oggetti tangibili, tangibili, né né fenomeni, fenomeni, neppure neppure il il costituente costituente dell'occhio e dell'occhio e così così via, via, fino fino ad ad includere includere il il costituente costituente della della mente, mente, il il costituente costituente della della coscienza coscienza mentale. mentale. Non Non c'è c'è ignoranza, ignoranza, né né estensione estensione dell'ignoranza, dell'ignoranza, fino fino ad ad includere includere le le vecchiaie vecchiaie di di morte, morte, estensione estensione delle delle vecchiaie vecchiaie della della morte. morte. Similmente Similmente non non c'è c'è sofferenza, sofferenza, origine, origine, cessazione, cessazione, sentiero, sentiero, non non c'è c'è saggezza saggezza suprema suprema né né ottenimenti, ottenimenti, neppure neppure mancanza mancanza di di ottenimenti. ottenimenti. Perciò Perciò Shariputra, Shariputra, poiché poiché non non c'è c'è ottenimenti, ottenimenti, i i Bodhisattva Bodhisattva si si basano basano e e dimorano dimorano nella nella perfezione perfezione della della saggezza, saggezza, dormenti dormenti senza senza oscurazione oscurazione e e senza senza paura. paura. Essendo Essendo completamente completamente andati andati all'alti all'alti ogni ogni ora, ora, raggiungono raggiungono il il punto punto finale, finale, il il nirvana, nirvana, ed ed affidandosi affidandosi alla alla perfezione perfezione della della saggezza, saggezza, evidente evidente che che tutti i tutti i Buddha Buddha dimoranti dimoranti nei nei tre tre tempi tempi si si sono sono anche anche completamente completamente risvegliati risvegliati all'insorpassabile all'insorpassabile perfetta e perfetta e piena piena illuminazione. illuminazione. Perciò Perciò il il mantra mantra della della perfezione perfezione della della saggezza, saggezza, il il mantra mantra della della grande grande conoscenza, conoscenza, il il mantra mantra insorpassabile, insorpassabile, il il mantra mantra uguale uguale a a ciò ciò che che non non è è uguale. uguale. Il Il mantra mantra che che pacifica pacifica completamente completamente tutte tutte le le sofferenze, sofferenze, dal dal momento momento che che non non è è falso, falso, dovrebbe dovrebbe essere essere conosciuto conosciuto come come vero. vero. Si Si proclami proclami il il mantra mantra della della perfezione perfezione della della saggezza. saggezza. Gate, Gate, gate, gate, Amparagate, Amparagate, Amparasam, Amparasam, gate, gate, Bodhisattva. Bodhisattva. Shariputra, in questo modo, Shariputra, in questo modo, poiché il poiché il Bodhisattva Bodhisattva Mahasattva Mahasattva dovrebbe dovrebbe addestrarsi addestrarsi nella nella profonda profonda perfezione perfezione della della saggezza. saggezza. Quindi il Bhagavan da quel samadhi alloggiò e poi salva Mahasattva Rikteshvara dicendo: ben detto, figlio del lineaggio, è proprio così, è proprio così. Si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza, proprio come tu hai mostrato, per finita Dhaka, non gioiscono. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sharadvati, il Bodhisattva Mahasattva Arya Rikteshvara, l'intera assemblea intorno a loro, insieme a tutti gli uomini, semidei, Gandhara, esultarono e posero alte lodi alla parola del Bhagavan. Sangye Jodan Sogye Jonam Na Jangjo Madhu Dhani Gyabzu Ji Dangye Jinzo Gyabe Sonam Gyan Drola Penji Sangye Drupa Jo Sangye Jodan Sogye Jonam Na Jangjo Madhu Dhani Gyabzu Ji Dangye Jinzo Gyabe Sonam Gyan Drola Penji Sangye Drupa Jo Sangye Jodan Sogye Jonam Na Jangjo Madhu Dhani Gyabzu Ji Nagi Chinzo Gyebe Sonam Gye Andro La Penji Sangye Droba Jo. Quindi cerchiamo di aggiustare la propria motivazione. Ascolteremo questi insegnamenti, cercheremo di fare sforzo nella comprensione, eventualmente nella messa in pratica, ma particolarmente il nostro incontro qui, quindi ascoltiamo questo insegnamento nello scopo di ottenere lo stato di Buddha per essere del più grande beneficio a tutti gli esseri senzienti, nostre madre del passato. Questo dovrebbe cercare di accelerare questa mente. Ok, quindi noi siamo, per quelli che, persone che arrivano, stiamo presentando, facciamo una presentazione dei stadi che conducono allo stato di Buddha, quindi quello che viene chiamato noi Lamrim, stadi del sentiero. Siamo nell'insegnamento, nella sezione di insegnamento dell'essere di motivazione iniziale, quindi abbiamo visto prima di questo il preliminare, il modo di relazionarsi con la guida spirituale. Okay? Abbiamo visto dopo, siamo entrati nella sezione che riguarda l'insegnamento dell'essere di motivazione iniziale, abbiamo visto l'esortazione a prendere l'essenza di questa vita, per questo abbiamo avuto l'insegnamento sulla preziosa rinascita umana, poi siamo entrati nell'addestramento effettivo, okay? E l'addestramento effettivo dell'essere di motivazione iniziale è suddiviso in due. Okay, per prima abbiamo lo sviluppare, al prendere a sviluppare l'aspirazione a sperimentare la felicità nelle vite future, e questo abbiamo due insegnamenti, okay? due sezioni: l'insegnamento sulla morte e l'impermanenza, e il secondo è l'insegnamento sui reami inferiore. E poi avremo sostanzialmente un'altra sezione che è il metodo effettivo per sperimentare felicità nella vita futura, e per questo abbiamo l'insegnamento sul rifugio, okay? Che è l'entrata nel Dharma, nel buddismo, okay? E il secondo è sviluppare la convinzione della legge di causa effetto, il karma, okay? Quindi noi siamo qui in questa prima sezione, che è lo sviluppo dell'aspirazione a sperimentare felicità nella vita futura, e stiamo finendo l'insegnamento sulla morte e l'impermanenza. Abbiamo visto i svantaggi di non sviluppare la consapevolezza della morte e dell'impermanenza, abbiamo visto i vantaggi di farlo e abbiamo visto anche il modo di sviluppare la consapevolezza della morte e dell'impermanenza tramite la meditazione in 9 cicli. Okay? Quindi la meditazione in 9 cicli ha 3 radici, 9 ragioni, e dobbiamo arrivare a 3 conclusioni. Okay? Queste 3 radici che vengono osservate è: primo, che la morte è certa; il secondo, che il momento della morte è incerto; e il terzo, che al momento della morte solo la pratica spirituale di beneficio. E abbiamo visto, quindi contemplando 3x3, 9 ragionamenti, che dobbiamo arrivare alla conclusione che devo praticare il Dharma o un sentiero spirituale, lo devo praticare adesso e lo devo praticare in un modo puro, ok? E il consacrare consacrarmi il più possibile, ok? Quindi siamo arrivati a questo punto. Poi avevo detto che volevo aggiungere anche, se non è menzionato in questa presentazione dei stadi del sentiero, visto che è una presentazione abbastanza breve, visto che in pagine A4 sono quanti pagine? 40, 39 pagine, ok? Quindi tutti i punti dettagliati non vengono presentati, però ho voluto estrarre per informazione, anche perché poteva essere utile, dall'esposizione della grande esposizione dei stadi del sentiero di Lama Tsong Kapa, quindi Lam Rim Chenmo, il modo nel quale si muore, per informazione personale, cosa accade al momento della morte e cosa si può fare per assicurarci che le cose vadano bene, ok? Quindi siamo a questo punto. Prima di andare avanti, sì, ci sono, quindi vi ricordo che ci sono delle cose che non sono chiare e che sono in connessione diretta con la presentazione, mi potete interrompere, cioè non è neanche un'interruzione, perché cioè, fa parte della dinamica della lezione, no? Ci sono interazioni, quindi io spiego del modo in quale posso e poi chiariamo il punto e andiamo avanti. Quindi per favore non rimanete con delle cose non chiare, perché ve le portate a casa, questo non lo vogliamo. E poi altra cosa, volevo sapere se fino all'esposizione che abbiamo fatto fin d'ora, se ci sono dei punti che volete eventualmente chiarire prima di andare avanti. Quindi questo sarebbe il momento, se avete delle cose, so che ci sono certi studenti che si incontrano, che discutono di queste cose, quindi mi sembra anche normale di lasciare del tempo per domande che eventualmente hanno incontrato delle difficoltà nel loro studio, eccetera. Quindi sarebbe il momento. Tutte domande che volete fare, no? Ok, quindi questo è problematico. Sì. Dunque, mi rimane un po' difficile, però. Nel testo viene spiegato bene, appunto, che il momento della morte è incerto, che la morte è certa, però io non ho capito come possa essere considerata un'ipotesi plausibile quella della reincarnazione, della vita futura. Cioè, qui io non l'ho trovato, però non sono sempre venuta a questi incontri, quindi okay. Però cioè, mentre tutte queste cose sono spiegate anche con tanti esempi, metafore, quindi risulta di facile comprensione, no? Capito? Sì, questo aspetto non è trattato qui, o è trattato implicitamente, quindi poi sono anche altri testi dove vengono presentate queste cose per accettare l'ipotesi, okay, che ci sono vite passate, vite future, perché cioè il problema è con le vite passate e vite future, questo, no? Giusto? Questo, ok. Quindi bisogna prendere in considerazione, l'avevamo visto un po' insieme, la natura della mente, no? Bisogna capire da dove sorge la mente e qual è la sua natura, ok? E capire che noi siamo quindi dopo, con la conoscenza, la comprensione del karma, aiuta molto a capire queste cose. Dovremmo anche aggiungere a questa la comprensione dell'assenza di caratteristiche intrinseche, ok? Quindi una comprensione del modo di esistere della persona, della mente a livello ultimo. Quindi sono dei vari insegnamenti che piano piano messi insieme la comprensione diventa sempre più salda e più completa. Quindi all'inizio è molto difficile, però diciamo la domanda che possiamo fare è quindi che cos'è questa mente, no? Perché nel buddismo si parla la reincarnazione, cosa significa? Significa la continuità della coscienza mentale, no? La coscienza mentale ha questa continuità e sperimenta varie ambienti, varie situazioni. Quindi qual è la causa di questa esperienza della mente e dove sorge la mente? Okay? Qual è l'origine di questa mente? Bene, per certe dottrine o anche modo di pensare, la mente sorge dal cervello, no? Il cervello e la mente vengono associati. Quindi nel buddismo ci vediamo delle grosse problematiche a presentare che la mente viene prodotta dal cervello. Perché, e questo ovviamente ci deve essere un po' di introspezione a questo livello, quindi la persona, il praticante, dovrebbe cercare di entrare in contatto con la propria mente. Per esempio il corpo, sappiamo che cos'è il corpo, no? È facile di capire il corpo, lo possiamo anche osservare a livello molecolare, alla sua struttura, di che cosa si compone, le varie cellule. Perché è abbastanza facile. La mente è più difficile, la mente è un chiaro conoscitore, quindi che cos'è la mente, dove sorge, tutte queste domande un praticante dovrebbe fare, e quindi dovrebbe anche cercare di interiorizzarsi un po' e di produrre i pensieri e osservare ma dove sorgono questi pensieri, osservare il sorgere del pensiero e osservare dove il pensiero va a dissolversi, no? E vedere anche l'interruzione di attività concettuale e poi di nuovo il pensiero che sorge e che va a dissolversi. Questo è un esercizio che uno dovrebbe fare, dovrebbe anche cercare di entrare in contatto con l'entità delle varie coscienze sensoriali, la coscienza uditiva, olfattiva, tattile, con le sensazioni anche, quali sono la loro natura. Quindi è importante far questo lavoro, perché altrimenti non si basa su un'esperienza, diventa solo qualcosa, come dicevo l'altra volta, un'ipotesi valida, una mera ipotesi. Quindi la mente è un chiaro conoscitore, quindi una volta che ci vuole una pratica diligente, ci vuole molto tempo, e nei test dicono che si entra in contatto con la mente, si riesce a identificare la sua natura convenzionale in un primo tempo, che è questo chiaro conoscitore. È un conoscitore nel senso che rifletti, come dicevo l'altra volta, rifletti fenomeni, rifletti oggetti, ok? E quindi è chiaro, nel senso che da questo punto di vista, da questa osservazione, viene percepito che non ha la natura della materia, non è atomicamente stabilita. Okay? Questo l'avevamo già discusso insieme, mi sa. Quindi da questo punto di vista dovrebbe chiedere ogni fenomeno che è una cosa funzionante, che svolge una funzione, che è impermanente, dipende da cosa in condizione. Quali sono le cose e condizioni che producono la coscienza, una mente, un istante di coscienza? Le cose e le condizioni ne abbiamo visto, ne abbiamo isolati in un modo molto, abbiamo fatto una presentazione molto semplice, abbiamo isolato le condizioni cooperante e la causa sostanziale. Abbiamo visto che le cause cooperanti sono ciò che entra, come sono le cause secondarie, che entrano nella produzione di un fenomeno, e poi c'è una causa principale che è la causa sostanziale, ok? Ci deve essere una similitudine, e questo lo potete osservare non soltanto a livello di fenomeni interni come la mente eccetera, ma anche con i fenomeni esterni che ci circondano, che ogni fenomeno ha una causa sostanziale e c'è una similitudine di natura tra la causa e l'effetto, nel senso che se prendiamo, come dicevo l'altra volta, il vaso di argilla, che è un risultato, ha come causa principale, come causa sostanziale, l'argilla, quindi una similitudine tra la causa e l'effetto. Quindi quando si parla della mente, si deve prendere in considerazione, quindi, qual è questa causa sostanziale della mente. Le cose cooperanti le conosciamo, sono i poteri sensoriali, i vari oggetti di osservazione, ma che cos'è questa causa sostanziale? Qual è quella che dà la cosa principale della mente? Quindi sì, la mente, come viene presentata in certi contesti, è un'operazione, è un risultato di un'operazione chimica, okay? Allora dovrebbe avere anche nel risultato mente, si dovrebbero osservare anche la stessa natura di queste cause. Quindi in operazione chimica, essendo molecoli e atomi, anche la mente dovrebbe avere queste caratteristiche di atomi e di molecoli, quindi una massa, una sagoma, un aspetto tangibile, anche infinitesimale. Dici infinitesimale? Infinitesimale. Okay? Però si dovrebbe rintracciare. O l'opposto, si dovrebbe rintracciare nella causa qualcosa simile al risultato, quindi una capacità di conoscere all'interno delle molecole o degli atomi. Quindi vedendo che questo non è possibile, l'unica cosa che può produrre un istante di coscienza è l'impronta lasciata di un istante precedente. Quindi i fenomeni impermanenti sono in uno stato di produzione e disintegrazione. Infatti un fenomeno non passa al di là dell'istante. C'è così istante, no? Non passa al di là dell'istante. È prodotto e distrutto. Quindi appena prodotto vi è distrutto. Non ci sono tre istanti di produzione, mantenimento e disintegrazione. Questo non c'è neanche. Infatti un unico istante può essere osservato come istante di produzione o istante di mantenimento, perché è prodotto e distrutto. Quindi uno schiocco di dita, che è un'unità di tempo che viene utilizzata per misurare l'impermanenza sottile, abbiamo visto che i fenomeni impermanenti sono prodotti e distrutti 65 volte. Quindi la mente, che è un fenomeno impermanente, anche questo è prodotto 65 volte in uno schiocco di dita. Quindi abbiamo questi vari istanti di coscienza che sono prodotti prodotti e distrutti e prodotti uno dopo l'altro, no? Quindi in questo contesto, no, si dovrebbe chiedere qual è la causa al primo istante di coscienza di questa vita. Da dove sorge il primo istante di coscienza di questa vita? Sorge dal nulla? Sorge da condizioni che sono di natura diversa, come la materia? O sorge di una causa di natura simile? Quindi si sorge, niente può sorgere da niente. Niente può sorgere da niente. Okay? Niente sorge anche di cause dissimile. Altrimenti cosa ci facciamo a produrre le cause per sperimentare risultati specifici, come per esempio i contadini che vanno a piantare i semi di grano per coltivare il grano? Se tutto sorge da tutto, cioè allora si dice nei trattati anche l'oscurità potrebbe sorgere delle fiamme di fuoco, no? Delle lingue di fuoco. Quindi ogni fenomeno ha le sue cause specifiche. E c'è una similarità di natura tra la causa e l'effetto. Quindi quando si riguarda la mente, che cos'è il primo, qual è la causa sostanziale del primo istante di coscienza di questa vita, di essere umano, è l'ultimo istante di coscienza dello stadio intermedio. Qual è il risultato del primo istante di coscienza dello stadio intermedio? È l'ultimo istante di coscienza della vita precedente. Esattamente come una persona si addormenta e si sveglia, no? Qual è la causa del primo istante di coscienza dello stato di sonno? È l'ultimo istante di coscienza dello stato di veglia. Qual è la causa sostanziale del primo istante dello stato di veglia? È l'ultimo istante dello stato di coscienza dello stato di sonno. E quindi in questo contesto possiamo incominciare, perché ancora noi non abbiamo questa percezione diretta di questa cosa, perché la nostra coscienza non ha la concentrazione per andare a osservare questi meccanismi ancora. Quindi tramite ragionamenti di quel modo, quindi basandosi su ragionamenti validi, si possono cercare di accettare, di cominciare a riflettere su questa cosa. Quindi alla luce di questa cosa, che ho fatto una presentazione estremamente precaria, okay, di questo processo, si può accettare, incominciare a accettare la possibilità di vite passate e di vite future. Okay? Questo è un modo di approcciare la cosa, prima, senza avere esperienza diretta di questa cosa, però a un certo livello speriamo che un giorno avremo l'esperienza diretta di queste cose. Poi dovrebbe anche prendere in considerazione anche molte persone che hanno ricordi di vite passate e di vite future. Cioè io conosco persone personalmente che hanno memorie molto chiare delle loro vite passate, okay? Sono anche certe volte capita, no? In India per esempio sono dei bambini che si ricordano, sono subito, vanno sul giornale eccetera, che si ricordano i parenti di vite passate, vanno anche a vederle. Okay? O case, oggetti, posti, molto chiaro, come noi ci ricordiamo di quello che abbiamo fatto ieri, loro si ricordano di quello che hanno fatto nella loro vita passata. Okay? Poi l'altra difficoltà, questo non è molto difficile da accettare, la più difficile è da accettare la possibilità di rinascite diverse da quella umana. Perché pensiamo che quando abbiamo lo stato umano, la cosa può sempre andare meglio. Questo è un grosso errore. Okay? Dal punto di vista del buddismo è un grosso errore. Perché noi siamo dei risultati che si auto-esperimentano. Questa esperienza, questa è un'esperienza della mente, no? La mente fa questa esperienza. Quindi questa condizione umana dipende da cose particolari che proiettano questi cinque aggregati, questi cinque costituenti psicofisici dell'essere umano. E poi abbiamo le varie esperienze di questo essere umano che dipendono anche da altre cose e condizioni. Però, quindi, anche lì, se tutto dipende da cose e condizioni, quali sarebbero... Cioè, ci sono delle condizioni particolari all'esistenza umana. Se uno non ha prodotto le condizioni per l'esistenza umana, cosa fa la mente? Si mette in pausa? Quindi no, la mente sperimenta risultati, anche sperimenta cause risultati di cause. Quindi ci sono lo vedremo quando faremo il karma, no? Questa vita umana è il risultato di azione di accumulo di grande virtù, della pratica della generosità, della pratica dell'etica, e che producono queste esperienze, okay? Ma se la persona, invece di aver avuto un'etica, una certa etica e le pratiche di queste virtù, ha fatto l'opposto, no? Ha passato la sua vita a uccidere, a fare quel tipo di cose, che tipo di esperienza avrà questa persona? Quindi dobbiamo riflettere a queste cose. Quindi quando faremo la sezione sul karma, cercheremo di gettare un po' di luce su queste cose. Okay? Il karma si sperimenta in quattro modi diversi. Abbiamo l'effetto di piena maturazione, abbiamo un effetto ambientale, abbiamo un'esperienza simile alla causa e un'esperienza simile al risultato. Quindi un'azione completa dà quattro tipi di risultati. Okay, quindi vedremo insieme questi vari tipi di risultati e come la cosa funziona in linee, nelle grandi linee. Ok, va meglio? Grazie. Prego. Ok, quindi adesso quello che volevo guardare con voi è come si muore. Come si muore e cosa accade, quindi brevemente, anche qui è una cosa un po' breve, come si muore e cosa accade al momento della morte, ok? Quindi le cause della morte vengono in generale, che cos'è la morte? È l'esaurimento della forza vitale, no? O della lunghezza vitale proiettata dal karma. Okay? Quindi il karma di un essere umano, nel miglior dei casi, proietta un'esperienza di vita più o meno per 80 anni, se tutto va bene, 80, 90, anche fino a 100 in casi eccezionali. Okay? Questo sarebbe il massimo che possiamo sperimentare, quindi nel migliore dei casi andiamo fino a questo livello, ok? Però ci sono anche quello che viene chiamato delle cause premature, ok? Premature, quindi si potrebbe, quindi una causa di morte sarebbe l'esaurimento della lunghezza di vita proiettata dal karma, e questo si chiama il morire di vecchiaia più o meno. Poi abbiamo delle morte, quelle che vengono chiamate dovuto a esaurimenti dei meriti, che la persona visto che tutto, no, tutte le esperienze favorevoli sono il risultato di azione virtuosa, di questa energia positiva, energia virtuosa, viene anche chiamata come meriti in certi casi, e invece le esperienze negative dipendono dal creare azioni non virtuose, come motivati dall'avversione, per esempio, l'orgoglio e queste cose. Quindi nel caso di esaurimenti dei meriti, la persona si ritrova in una situazione dove è depauperata di mezzi di sostenimenti, dovuto a esaurimenti del karma virtuoso. Finito. Quindi la persona si ritrova in un posto dove non trova più cose per mangiare, per bere, e muore. Quindi viene depauperata delle necessità di vite. Poi abbiamo altre cose che sono un terzo tipo di morte che si chiama dovuto all'aver fallito a evitare i pericoli. E i pericoli sono di 9 tipi. Nei sutra abbiamo sempre delle divisioni, delle suddivisioni. Ci piace molto nel buddismo questa cosa. Quindi abbiamo 9 tipi di cause che entrano in questa categoria di non aver evitato i pericoli. Il primo è mangiare troppo. Mangiare troppo può essere una causa di morte. Mangiare troppo. L'altra sarebbe il mangiare del cibo indigeribile. Okay? Abbiamo anche una causa di morte prematura, queste sono morte premature, è il mangiare prima di aver digerito quello che c'è già nello stomaco. Poi abbiamo questo, indeboliscono la forza vitale e creano una morte, prima l'esaurimento completo della forza di vita proiettata dal karma. Questo contesto. L'altro sarebbe di non riuscire a evacuare il cibo dello stomaco. Un altro sarebbe l'ostruzione intestinale. L'altro sarebbe dovuto al non appoggiarci su medicine, appoggiarsi su medicine in caso di malattie. Un altro sarebbe il mancare di discernimento rispetto alle attività con le quali abbiamo abitudine e non abbiamo abitudine. Per esempio, si potrebbe desiderare lanciarsi in un certo tipo di attività, per esempio sportive o anche uno sforzo, e non essendo abituato si muore. Questo lo troviamo molto spesso, è il cuore, più o meno il cuore. Poi abbiamo incidenti, incidenti vari, e abbiamo come si dice, un'attività sessuale smisurata, Questo anche indebolisce la forza vitale. Quindi questo in breve sono le cause, possiamo dire di queste cause. Al momento della morte, adesso entriamo in questa sezione che è l'osservare la mente al momento della morte. Una mente può essere di tre tipi al momento della morte: virtuosa, non virtuosa e neutra. Quindi, una mente virtuosa, quindi quello che dovremmo fare, e direi che la pratica spirituale ha come scopo di preparare gli individui a questo momento, è di morire in uno stato di mente virtuosa. Come si manifesta una mente virtuosa al momento della morte? Semplicemente o dal proprio potere, quindi uno è sufficientemente abituato, si è esercitato a momenti del sonno, eccetera, quindi è in grado di produrre memoria o memoria di attività virtuose, o stati di mente virtuosi, vedremo quali sono dopo. O viene aiutato dalle persone che lo circondano. E queste anche, quindi bisogna, cioè persone che non sono addestrati, anche certe volte anche quelli che sono un po' addestrati, hanno bisogno di sostenimenti in questo momento molto difficile, molto delicato. Quindi può essere aiutato da altri a portare alla mente la virtù o supporti virtuosi, come la fede, per esempio, no? Fede o i pensieri ai propri maestri, o pensieri come molto virtuosi come l'amore, la compassione, queste cose. O se non siete buddisti, funziona anche con i vostri supporti di fede che le persone hanno, no? Il Cristo, eccetera. Stessa cosa. E quindi è questo stato virtuoso di mente dimora finché la discriminazione grossolana della mente opera, no? Dopo incominciamo la dissoluzione dei livelli di coscienze e la mente entra in uno stato che è eticamente neutro e che è impossibile da muoverci da questo stato. Quindi il lavoro che può essere fatto si fa prima questo processo di dissoluzione, perché dopo la mente è fissata in un processo eticamente neutro, visto il recidere dell'attività grossolana come un'attività concettuale. Quindi il generare uno stato di mente virtuoso si fa poco prima il processo effettivo della morte. Una volta che il processo è iniziato e che le coscienze incominciano a dissolversi, cioè i dadi sono già gettati a quel momento. Quindi quando le virtù, quando virtù e non virtù sono uguali in proporzione in una vita di qualcuno, allora o quindi qualcuno ci aiuta a ricordare le proprie virtù, o uno riesce a... scusate, quando non sono uguali, quando virtù e non virtù non è uguale, quindi che la virtù predomina, uno o si lo fa ricordare da altri, o uno riesce a portare alla mente il tipo di azione con il quale ha il più di familiarità. L'attività virtuale con la quale ha il più di familiarità, uno riesce a riportarla alla mente. Ok? A quel punto la mente si assorbe in questo e non si muove più. E questo si fa prima le dissoluzioni, prima che la mente entra in questi stati dove la discriminazione grossolana cessa e quindi la mente entra in stati eticamente neutro. Quindi il lavoro si fa a quel momento, perché dopo la mente si assorbe e non si muove più, non lascia più quell'apparenza. Okay? Quindi quando la virtù e la non virtù sono uguali, allora quello che viene portata alla mente, okay, è la cosa che viene, la cosa che non viene dimenticata è la cosa che viene pensata per prima. Quindi il pensiero che sorge alla mente quando virtù e non virtù, quindi la cosa è così, no? Non so se sono stato chiaro. Quando la virtù predomina, la persona è in grado di ricordarci le attività con le quali ha il più di familiarità. Ok? Virtù, la mente si fissa su questo e dopo c'è la cessazione della discriminazione grossolana e la mente diventa eticamente neutra. Quando invece non sono uguali, quando sono, sì, quando sono uguali, virtù e non virtù sono uguali, la mente riesce a ricordarci ciò che è stato portato alla mente per primo. In questo momento di avvicinamento al momento della morte, no? I pensieri che sorgono per primi sono quelli che rimangono fissati. E dopo, il problema è che dopo la mente non può più impegnarsi in qualcosa, no? A quel momento, perché le cose che vengono portate a mente, la mente si fissa sopra. Okay? Quindi la persona che ha coltivato virtù, gli sembra di passare, no? Quando c'è questa dissoluzione delle coscienze, eccetera, che la mente si incomincia a assorbirsi, che la persona quindi effettivamente ha incominciato il suo processo della morte, incomincia a passare dall'oscurità, cioè la sensazione di passare di oscurità verso luce, oscurità verso luce, e ha delle apparenze come in un sogno, no? Delle apparenze piacevole, ok? Piacevole. E in questo contesto una persona muore confortevolmente, non ci sono sensazioni di sofferenza fisica e mentale intense, non ci sono. Possiamo sentire la lezione oppure se vuoi un po' di tempo? No, non c'è problema, entrate pure. Bisogna lasciare le scarpe? Sì. Quindi questo è nel caso di qualcuno che ha coltivato la virtù. Okay? Quando invece si muore in uno stato di mente non virtuoso, quindi anche qui la mente si torna verso la non virtù dovuto al proprio potere, dovuto al ricordarsi da solo o dovuto essere aiutato da altre persone. Quindi mi spiego come altre persone possono fare in modo che il morente genera stati mentali non virtuosi. Semplicemente dovuto a essere molto, molto triste di questa cosa, no? Le persone cominciano a piangere o a chiedere a questa persona di non andarcene. A quel momento la persona genera anche grande tristezza, no? E attaccamento per i propri cari, i propri vicini. Quindi questa mente di attaccamento che non vuole andarsene, che non vuole essere separato, è una mente non virtuosa. Mente di attaccamento è una mente non virtuosa. Questa è una cosa, il peggio, il servizio peggio che potete rendere a una persona che sta andandosi è fargli generare dei stati di mente non virtuose così, invece di aiutarlo a lasciare, a scivolare, andarsene, cercare di trattenerlo o di fare in modo che la sua mente non parte in uno stato sereno. A quel momento si genera una mente di attaccamento, per esempio, Dopo c'è, l'abbiamo visto, la cessazione della discriminazione corretta, la discriminazione grossolana, e la mente si fissa su questa mente di attaccamento, e il morente parte con quel tipo di mente. Quindi a quel momento tutto il processo diventa difficile, viene associato ai dolori mentali, anche dolori mentali dovuto andarsene, e anche dolori fisici, ok? Quindi quando una persona ha familiarità con la non virtù, okay, allora al momento della morte ci sono dei segni come incubi, invece di avere delle visioni piacevole, ha delle visioni spaventose, cioè che creano paura nella coscienza di questa persona, okay? E ha molti segni spiacevoli, okay? E invece di avere la sensazione di passare dall'oscurità alla luce, passa dalla luce all'oscurità. Questa è l'esperienza, ok? Quindi sì, le non virtù sono molto, molto potenti, molto pesanti, quindi alla persona anche agitazione proprio a livello fisico, si può vedere la persona che è agitata a livello fisico, e si possono anche perdere urine e feci in queste occasioni. Quindi al momento della morte, quando la discriminazione diventa non chiara, si chiama la discriminazione non chiara, nel senso che la discriminazione grossolana cessa, le persone, visto che siamo attaccati al sé, no? Attaccati al sé, perché è il supporto con il quale abbiamo così tanta familiarità, no? Dal potere dell'attaccamento al sé pensiamo che andiamo a uscire dall'esistenza, no? C'è questo è un po' come, non so se avete, se vi è già capitato, no? Camminate, c'è un'escale nel buio, no? Certe volte siamo arrivati all'ultima marcia, come si dice, l'ultimo gradino, e si pensa che ce n'è un altro, però abbiamo avuto questa sensazione di cadere nel vuoto, no? E di a quel punto l'afferrarsi al sé sorge. Quindi è un po' simile, la persona ha la sensazione di uscire dall'esistenza, no? A quel momento quindi c'è un forte afferrarsi all'io che sorge, e questo è la causa dello stato intermedio. Questo causa lo stato intermedio, questo afferrarsi all'io, io non ci sono, ma sia per me, questa afferrarsi all'io è la persona, e questo crea, causa lo stato, produce lo stato intermedio, ok? Quindi quando moriamo con uno stato di mente virtuoso, quindi questo stato di mente virtuoso, abbiamo visto, è presente fino alla discriminazione, alla cessazione, fino alla discriminazione grossolana. Quando la discriminazione grossolana cessa, è che c'è una discriminazione più sottile dovuta al dissolversi dei livelli di coscienza, allora la mente, la discriminazione sottile viene attivata, e la mente, la mente virtuosa si ferma, perché la mente virtuosa è comunque una mente grossolana, e la mente entra in uno stato eticamente neutro, ok? A quel momento la persona è incapace di produrre ricordi di azione virtuosa, non virtuosa, eccetera, dovuto alla mancanza di discriminazione grossolana. Ok, quindi quando la persona muore, anche, quindi ci sono le dissoluzioni, quindi per prima abbiamo le dissoluzioni dei vari elementi, nel senso che prima abbiamo l'elemento terra, dopo l'elemento acqua, fuoco, eccetera, nel senso che questi vari elementi che compongono il corpo non diventano più il supporto per la coscienza. E una volta che abbiamo avuto queste varie dissoluzioni dei vari elementi con delle apparenze, quindi abbiamo prima l'apparenza della, simile a un miraggio, no? O se guardate un fuoco, no? Un fuoco, il calore, no? O in estate sulla strada, no? C'è questa apparenza del miraggio, no? Questo è il primo segno di una persona che sta morendo, okay? Questo è l'elemento terra che si dissolve nell'elemento acqua, okay? Dopo abbiamo l'elemento acqua che si dissolve nell'elemento fuoco, e abbiamo un'apparenza simile al fumo, o quando c'è la nebbia e che è entrata in macchina in una massa di nebbia, no? Questa è la seconda apparenza. Dopo c'è l'elemento fuoco che si dissolve nell'elemento vento, e c'è un'esperienza simile a quando si prendono di notte due bastoni infiammati e si battono uno contro l'altro. Avete tutte queste centiglie rosse che partono nello spazio, no? Quindi questa è l'apparenza susseguente. Dopo di questa abbiamo l'elemento vento che si dissolve nel primo livello di coscienza, e c'è la luce, l'apparenza simile a una candela che sta per andarsene. Quindi c'è l'ultimo nel buio, no? l'ultimo istante di una candela, e dopo si spegne, no? C'è vedete intorno alla candela, no? Nel buio c'è questa massa di non questa massa di questa apparenza questa aiutatemi cioè, no? guardatemi così come ecco questo no e dopodiché si entrano nelle dissoluzioni dei vari livelli di coscienza. Quindi abbiamo un primo livello di coscienza grossolana, quindi dopo questo si dissolve quindi abbiamo visto, no? Questa è la dissoluzione dell'elemento vento nella coscienza. Dopo abbiamo la coscienza dell'elemento del primo livello, che si chiama l'apparenza bianca, dove l'apparenza alla persona morente è che tutto, l'unica cosa che appare alla mente è un'apparenza bianca, simile un biancore, simile al chiaro di luna piena. Questa è l'unica apparenza che appare, l'unica cosa che appare. E dopo abbiamo, questa è l'apparenza bianca, dopo abbiamo l'incremento rosso, quindi abbiamo questa mente dell'apparenza, questa coscienza dell'apparenza bianca si dissolve, e abbiamo l'incremento rosso, quindi l'incremento rosso è come un rosso nel cielo al tramonte. Questa è l'unica apparenza che è al morente. E dopo questa apparenza abbiamo un altro livello più sottile, che è l'ottenimento nero ravvicinato. Abbiamo la mente, perché è una mente, dell'incremento rosso si dissolve e viene manifesto un buio completo. Questa è la mente dell'ottenimento nero ravvicinato. Dopo questa mente dell'ottenimento nero ravvicinato viene manifestato il livello di coscienza il più sottile che possiamo manifestare, che è la mente del chiaraluce. E la mente del chiaraluce è simile al cielo di autunno all'alba. È privo delle apparenze, dell'apparenza nera, dell'apparenza rossa, dell'apparenza bianca. E questo è questa chiarezza privile di vari inquinamenti delle altre apparenze. Questa è la mente la più sottile. Okay? Questa era una parentesi. Quindi ci sono all'interno del buddismo delle pratiche che aiutano il praticante, il meditatore, a rimanere cosciente durante tutto questo processo. Okay? Questi insegnamenti si trovano nel Tantra, okay? Dove lo scopo, no? È che il praticante, quando entra al momento della morte, segue tutta questa meditazione. Tutta questa meditazione che il praticante ha fatto durante tutta la sua vita, un tot di volte al giorno, e dopo è in grado di farlo al momento della morte e di morare completamente cosciente di ciò che sta accadendo. Quindi è in grado di riconoscere le varie apparenze, eccetera. Quindi torna a casa in un certo modo. Ok, quindi sì. Allora, durante questo processo di dissoluzione della coscienza, dei segni esterni sono anche presenti, okay? Ci sono anche vari segni esterni. Uno che viene osservato e che dà indicazione del tipo di rinascita della persona è l'osservazione del calore. Quindi il calore si dissolve verso il cuore. Quindi di solito si dice che quando la persona ha attivato dei potenziali per prendere rinascita in stati fortunati come quello umano, allora il calore e quindi la coscienza si dissolve dal basso verso l'alto. Quindi prima le parti inferiori diventano freddi, Ok? E questo quindi sarebbe un buon segno. Invece quando prima le parti superiori diventano fredde, e che il calore si dissolve al cuore, avendo prima le parti superiori che diventano fredde, questo non è un segno buono. Okay? Quindi, quindi la coscienza si dissolve al cuore, okay? E quando si è completamente dissolta al cuore, abbiamo il manifestare la mente di chiara luce, e l'istante successivo è lo stato intermedio. La coscienza molto sottile esce, e a quel momento abbiamo tutto questo processo che abbiamo visto di dissoluzione in fase opposta. Quindi ottenimento ravvicinato nero, incremento rosso, apparenza bianca, apparenza della candela, apparenza delle scintille, eccetera, eccetera, eccetera, fino a manifestare l'elemento grossolano dell'essere dello stato intermedio, le sue coscienze sensoriali. Okay? Quindi lo stato intermedio, che cos'è questo stato intermedio? È uno stato dove la persona non ha ancora presa rinascita effettiva, okay? Però ha comunque l'apparenza del tipo di rinascita che deve prendere. Quindi abbiamo, la persona deve prendere rinascita come un essere umano, la persona ha già l'apparenza di un essere umano, però ha un corpo non fatto, quindi è uno stato, è una dimensione particolare dove gli esseri con coscienze grossolane come noi non ne possiamo percepire, okay? Solo persone con chiaroveggenza e poteri di concentrazione particolare possono percepire questi esseri dello stato intermedio. Al massimo una persona vive 49 giorni nello stato intermedio. Okay? Dopo 49 giorni necessariamente la persona ha preso rinascita. Okay? Necessariamente. E quindi, come dicevo, ha un corpo mentale significa un corpo sottile che non è ostruito dalla materia. Okay? Non è ostruito dalla materia. E si sposta alla velocità del pensiero, okay? Quindi basta pensare e si sposta. È ostruito solo da due cose: dal grembo materno, okay? E il sedile Vajra, Bodh Gaya, il posto dove tutti i Buddha dei tre tempi ottengono l'illuminazione. Qui c'è ostruzione anche per l'essere dello stato intermedio. C'è qualcosa di particolare in questo posto. Okay, quindi come si fa il processo di nascita? Okay. L'essere è in certo modo mi sono dimenticato questo. No. Ok, dovuto al karma, l'essere è attratto in un certo modo dalle persone che saranno i suoi genitori. Ok, quindi un essere non può prendere rinascita da persone con le quali non ha questo karma particolare, quindi è un karma particolare. Okay? Quindi per quelli, siamo nel caso di una rinascita tra il grembo materno. Ci sono vari tipi di rinascita, abbiamo la rinascita nell'uovo, ok? Abbiamo una rinascita nell'umidità e il calore, abbiamo una rinascita quindi nel grembo materno e una rinascita spontanea. Questi sono i vari tipi di rinascite che sperimentano gli esseri nell'essenza ciclica e nel samsara. Quindi nell'uovo sappiamo chi prende rinascita nell'uovo, non c'è bisogno di spiegare, chi prende rinascita anche nell'umidità e il calore, sappiamo, sono di questi vari insetti, particolari, vermini, eccetera, ok? E quelli che prendono rinascita spontanea sono o nei reami inferiori, un certo tipo di reami inferiore, e nei reami superiori ci sono rinascite spontanee. Quindi l'essere è attratto dal suo posto futuro di nascita, ok? quindi percepisce i suoi genitori, ma percepisce, non so, c'è una certa oscurazione, confusione al desiderio di percepirle, però l'unica cosa che percepisce sono gli organi in unione del padre e della madre in unione, ok? E quindi per l'essere dello stato intermedio è una sorta di gioco, quindi ha il desiderio di unirsi a questa cosa, c'è una sorta di gioco, però diventa molto frustrato perché è l'unica cosa che percepisce questa cosa, ok? Di organi in unione. E quindi questo crea a un certo punto della collera, una certa collera, e questo uccide l'essere dello stato intermedio. Okay? Allora, sì, l'essere dello stato intermedio è attratto dal maschio, prende rinascita come femmina. Sì, l'essere dello stato intermedio è attratto dalla donna, prende rinascita come maschio. Okay? Poi dopo anche la posizione iniziale nel grembo materno, c'è una posizione del maschio e della femmina che sono studiate. Okay? Quindi l'essere è dovuto a questo attaccamento, no? A questo attaccamento per il padre e la madre futura, viene sempre attratto, è attirato sempre più vicino, però dovuto aver questa oscurazione, l'unica cosa che percepisce sono gli organi in unione, questo crea una grande frustrazione, una collera, e l'essere dello stato di intermedio è così sottile e fragile che la collera lo uccide. E dopo di questo c'è la rinascita nel grembo materno. Okay? Quindi questa è una presentazione estremamente breve, vi passo un sacco di dettagli perché andremo al di là del nostro discorso. Quindi allora a quel punto, quando l'essere muore, abbiamo di nuovo tutte queste dissoluzioni, però molto veloci, ok? Allora, quando la coscienza molto sottile si miscola alla sostanza del padre e della madre, questa è la nascita dal punto di vista buddista. Il momento della nascita è questo. Allora, il posto dove la coscienza si miscola alla sostanza del padre e della madre, questo è il chakra del cuore. Questo è il posto iniziale, è il cuore, è il posto iniziale dove la coscienza entra. È il posto finale dal quale la coscienza esce. Abbiamo visto che il calore, no? È al cuore. Quindi anche l'essere dello stato intermedio ha delle apparenze quando muore, no? Quando entra nel grembo materno. Quindi sì, l'essere dello stato intermedio che deve prendere rinascita come umano ha molti meriti, quindi molta energia virtuosa, allora diciamo, sente dei suoni molto piacevole, suon dei suoni molto piacevole, e ha come la sensazione anche come di entrare in una bellissima dimora. Queste sono le apparenze che ha la sua mente. Invece si ha pochi meriti e quindi prende rinascita non in stati sociali molto, molto, molto elevati. Allora sente del rumore, ma non è così piacevole. È più un clamore, clamore si dice? Ok? E gli sembra di entrare in una foresta, in un posto un po' più oscuro. Okay? Queste sono le esperienze che sono descritte nei trattati. Quindi, se l'essere dello stato intermedio non ha il desiderio di muoversi verso il posto di nascita, che quindi è questa, cioè l'unione del padre e della madre, se non ha il desiderio di avvicinarci a questo posto, lui non può prendere rinascita in quel modo, in questo posto. Ok, quindi adesso arriviamo a quello che possiamo fare per preparare questo momento fatidico della nostra esistenza, che vi ricordo è l'unica certezza della nostra vita, no? Tutto il resto sono dei progetti ipotetici che facciamo. Quindi come possiamo prepararci a questo momento? Abbiamo quello che viene chiamato le cinque forze, l'utilizzo delle cinque forze. È qualcosa nel quale tutti i giorni dobbiamo addestrarci per fare in modo che al momento della morte non ci sono nessun problema, okay? La cosa fluisce. Quindi Alla luce di questo possiamo capire che la rinascita dipende dal tipo di mente che generiamo al momento immediato e durante i stadi, al momento immediato e durante i stadi di dissoluzione di questo processo, no? Di questo processo. Quindi sì, siamo familiari, siamo in familiarità con i processi di trasferimento di coscienza del tantra, allora ci possiamo addestrarci in questo, ma visto che non penso che, o forse, cioè, non tutti hanno ricevuto questi insegnamenti, quindi vediamo una cosa che appartiene al veicolo del sutra, okay? Quindi abbiamo quello che viene chiamato le cinque forze che sono insegnate nei raccogli di testi che si chiamano Lojong, o addestramento mentale. Quindi la prima forza è l'intenzione benefica. Questo si fa quando siete sdraiati e che vi preparate a passare la notte a dormire, okay? Quindi si fa questo esercizio che prende pochi minuti, un paio, due, tre, cinque minuti, dipende dal tempo che abbiamo, okay? Quindi il primo è la forza dell'intenzione benefica, e questo si riferisce al generare fortemente l'intenzione di non lasciare la mente separata dalla mente dell'illuminazione, ok? In questa vita, al momento della morte, durante lo stadio intermedio e nella vita futura. Quindi dare questa intenzione, no? Di non lasciare la mente mai separata dalla mente di Bodhicitta al momento della morte, nello stadio intermedio e nella vita futura. Quindi la generazione di questa forte intenzione. Il secondo è il potere del seme bianco. Il potere del seme bianco. Questo si riferisce al preparare la mente al non attaccamento. Quindi a eliminare le forme, le varie supporti di attaccamento della mente. Quindi questo significa che dobbiamo mentalmente, ogni volta che ci indormentiamo, eccetera, pensare che tutti i nostri possedimenti, le nostre fonti di attaccamento, i nostri possedimenti le vengono dati a essere senzienti, le abbandoniamo agli altri esseri, esattamente come per avere una mente completamente libera di queste tracce di attaccamento, esattamente come un uccello quando prende il suo volo, no? Decola, si dice decolare? Decola da un ramo o da un sasso, è completamente priva di attaccamento per il ramo o per il sasso, no? Completamente libero, ok? Quindi dobbiamo esercitare la mente a essere completamente libera in questo modo dei vari supporti di attaccamento che potrebbero dar fastidio, cioè fastidio non è proprio il termine, essere un ostacolo al momento della propria morte. Okay. Il terzo è la forza della distruzione. La forza della distruzione. Questo significa di distruggere progressivamente il karma negativo accumulato da tempi senza inizio tramite l'utilizzo dei quattro poteri opponenti. Okay. Quindi è possibile che prendiamo coscienza che i risultati le esperienze sono risultati di azione, quindi risultati piacevoli, risultati di azione virtuosi, risultati spiacevoli dovuto a azioni non virtuose. Quindi a quel punto la persona prende coscienza e decide di adottare un comportamento etico, okay? Quindi questo è fantastico, perché però non basta, nel senso che da tempi senza inizio abbiamo compiuto anche in questa vita molte azioni non virtuose sotto l'influenza dell'attaccamento, della brama, dell'avversione, dell'orgoglio, okay? Della gelosia, dell'invidia, e quindi questi karma possano maturare al momento della morte e proiettare un'esperienza di difficoltà, ok? Quindi il adottare un comportamento etico è fantastico, ma non basta, bisogna anche neutralizzare tramite la meditazione, tramite delle tecniche, questi potenziali non virtuosi che abbiamo depositati sulla coscienza, questi semi. Dobbiamo depauperare questi semi karmici della loro potere di maturazione. E questo si fa tramite l'utilizzo delle quattro forze, o dei quattro poteri. Il primo è il potere, quindi, del rimpianto, come si dice, rimorso. Ok? Okay. Non è una cosa nel contesto cattolico, tipo o morale, no? Questo non è morale, questo è brutto, eccetera, ho fatto questo. Non è assolutamente in questo contesto. È semplicemente la presa di coscienza, e portare alla coscienza il fatto che un'azione che abbiamo fatto sarà una fonte di sofferenza per noi nel futuro. E osservando questo, generare rimorso o pentimento rispetto ad aver compiuto tale azione, perché la riconosciamo come fonte di sofferenza futura. Quindi completamente fuori un contesto religioso, morale, eccetera. È semplicemente dal punto di vista della legge di causa effetto. Okay? Esattamente come immaginate che andate al ristorante con quattro amici o tre amici, mangiate esattamente la stessa cosa, okay? Quindi mangiate bene, uscite e un primo amico cioè, cade morto, cioè morto, siete lì, fate due passi, il secondo cade morto, il terzo cade morto. A un certo punto vi dite, ma forse sono il prossimo e sicuramente sarà dovuto a quello che abbiamo mangiato. Quindi a quel momento avete un certo rimpianto rispetto a quello che avete ingerito. Questo è lo stesso tipo di timore che dovete generare, no? Sapete che quello che avete ingerito, quello che avete compiuto, sarà fonte di sofferenza futura per voi. Questo è il tipo di mente che bisogna generare in quel momento, ok? Okay. Perché il karma non purificato, il karma che non è depauperato della sua potenzialità di maturazione, sicuramente è una questione di tempo, produrrà un risultato di felicità o di sofferenza in dipendenza della natura di queste azioni, non c'è dubbio. Okay, questo vedremo tutte queste cose quando faremo il modulo sulla sezione sul karma. Poi il quarto è il potere della... abbiamo visto che questi quattro poteri, il primo è il rimpianto o pentimento, il secondo è la determinazione, okay, di non compiere di nuovo quel tipo di azione, okay? Quindi sì, per esempio un'azione di uccidere, allora possiamo, è facile di smettere di uccidere, okay? Però ci sono altre cose per le quali abbiamo problemi, per esempio il parlare a vanvera, tutte queste cose, no? O il mentire, sono più difficili, quindi possiamo cercare di determinarci a non compiere quell'azione per una giornata, per due, tre, quattro, e piano piano espandere fino ad essere in grado di completamente eliminare quel tipo di azione. Okay? Quindi vedremo più avanti quali sono le azioni da eliminare. Il terzo potere è il potere del rifugio, quindi un'azione non virtuosa viene compiuta in relazione a due tipi di campi, il campo mondano e il campo sopramondano. Quindi questo significa che un'azione non virtuosa sua viene compiuta all'incontro dagli altri esseri senzienti, che sono degli esseri ordinari come noi, o esseri che hanno realizzazione spirituale, okay? Come i maestri, eccetera. Quindi esattamente come quando impariamo a camminare, quando siamo bambini, no? Quasi neonati, impariamo a camminare, cadiamo e ci rimettiamo in piedi esattamente sullo stesso, il stesso suolo sul quale siamo caduti, allora rispetto al campo degli esseri senzienti si genera la mente di grande compassione al loro incontro, la mente di grande compassione e riguardo agli esseri che sono più elevati, i propri maestri, eccetera, si prende rifugio. Okay? Quindi il terzo potere è la presa di rifugio e la generazione della mente dell'illuminazione. Okay? E finalmente il quinto potere è il potere dell'antidoto effettivo. Okay? Quindi l'antidoto effettivo può essere qualsiasi azione virtuosa che viene compiuto in questo contesto, per esempio, decidete di meditare per 10 minuti sull'amore incommensurabile, sulla compassione, ok? O recitare il sutra del cuore, per esempio, recitare il sutra del cuore, questa è un'azione virtuosa, o recitare il nome dei 35 Buddha, questo è un grande potere di neutralizzazione del karma negativo, o c'è anche il mantra di Vajrasattva che va recitato almeno 21 volte, ok, quello lungo, o meditare sulla vacuità. Meditare sulla vacuità è la cosa migliore che potete fare, riflettere sul modo di esistere finale dei fenomeni, quindi adesso forse rimane solo una parola, però più avanti insieme cercheremo di elaborare, di indagare questo aspetto della realtà, okay? Quando il momento arriverà. E quindi questi sono i quattro poteri opponenti. Perché sono quattro? Perché si oppongono ai quattro modi di maturazione del karma. Quindi l'antidoto effettivo si blocca l'effetto di piena maturazione, che sono proiettare i cinque aggregati contaminati. L'effetto, allora, il rifugio e la generazione della mente di illuminazione si oppone all'effetto ambientale, okay? Vedremo più avanti cosa significano queste cose. Il rimorso blocca l'esperienza simile alla causa. Per esempio, uccidete, avete una vita breve, piena di malattie. Questo è più o meno il concetto, ok? Il rimorso, okay? E la determinazione di non compiere di nuovo, questo si oppone alla tendenza simile alla causa, perché più abbiamo familiarità con un'azione, più si compie un'azione, più depositiamo un'impronte per avere una certa predisposizione per svolgere quel tipo di attività, ma anche un certo gusto per quel tipo di attività. Più si uccide, più ci piace uccidere. Okay? Più si mente o più si trasforma la discriminazione degli altri rispetto alla realtà, se vogliamo mettere in parole diverse, okay? Più sviluppiamo questa predisposizione a farlo. Quindi questi sono i quattro poteri opponenti. Utilizzando regolarmente questi quattro poteri opponenti, tutto il karma compiuto da tempi senza inizio viene piano piano neutralizzato. Okay. Quindi questa era la terza forza, che era la forza della distruzione. Okay. Poi il quarto è la forza della familiarità. La forza della familiarità è di mantenere al momento della morte, okay, al momento che incominciamo a morire, la mente dell'illuminazione, per esempio, okay? Il manifestarla e mantenerla. Quindi questo significa che quando vi indormentate, cercate di indormentarvi con la mente dell'illuminazione. Questo è il migliore dei trasferimenti di coscienza. Infatti Sua Santità il Dalai Lama dice spesso, no, che sono tutte queste cose del tantra, eccetera, eccetera, però secondo lui queste sono difficili. Okay? Dice che la cosa migliore è la mente dell'illuminazione al momento della morte. Questa è la cosa migliore. Siamo assicurati di attivare dei potenziali virtuosi. Okay? Per mettere l'illuminazione intendi bodhicitta, il desiderio dell'illuminazione, esatto, per il bene di tutti gli esseri. Sì. C'è un mantra particolare legato al bodhicitta oppure semplicemente... Semplicemente questo pensiero. Okay? O la mente di grande compassione, visto che è come è la cosa sostanziale della mente di bodhicitta. Ma semplicemente questo desiderio, no? Possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti e morire in quel modo, Sua Santità dice che siamo assicurati che le cose vadano bene. E il quinto è il potere della dedica, che è il dedicare a tutte le nostre azioni virtuosi, ai pensieri virtuosi, il karma positivo che facciamo e tutte le nostre accumulazioni di energia positiva, okay, per prendere rinascita nei rami superiori, okay, come quello degli esseri umani, e ottenere quindi una preziosa rinascita umana e essere di beneficio agli altri esseri. questa sarebbe la dedica. O in una terra pura, se vogliamo prendere rinascita in una terra pura, potete farlo anche. Si dedica per prendere rinascita in una terra pura e essere di beneficio agli esseri senzienti. Ok, queste sono le cinque forze. C'è un'altra cosa che viene anche spiegata cioè spesso, che è comunque legata a queste cinque forze, che è la pratica proprio dell'indormentarci, no? Quindi quando ci indormentiamo, possiamo anche pensare che ci indormentiamo sui genocchi del Buddha, per esempio, o i genocchi del proprio maestro, ok? Anche un trasferimento di coscienza eccellente anche è il portare a mente il proprio maestro spirituale. Anche questo è assicurato che funziona secondo la sua santità il Dalai Lama. Quindi pensate che invece di appoggiare la testa sulla, come si chiama, cuscino, l'appoggiate sui suoi ginocchi, per esempio, e vi indormentate in quel modo, o sui ginocchi del Buddha, okay? O su Tara, se avete Tara come divinità, ok? E se vi indormentate in quel modo, c'è problema, okay? Poi potete elaborare questa visualizzazione, elaborarla, quindi riportare alla mente, quando fate questo, alla mente di amore, di grande compassione, generare, fare una preghiera di aspirazione per essere in grado di eliminare la sofferenza dei rami inferiori, ok? E in quel modo vi addormentate, okay? Recitando il mantra del Buddha o della divinità, okay? Il mantra di Tara o il mantra di Buddha Shakyamuni, e vi addormentate in quel modo. Cioè questo è... Scusa, sì. Come possiamo sapere alla fine di una giornata se abbiamo accumulato dei meriti positivi, del karma positivo? Ok, questa è una buonissima domanda, ok? Quindi bisogna osservare l'attività mentale, okay? Infatti il buddismo, un buddista in tibetano, quando si prende la traduzione letterale, significa la persona che si è girata verso l'interno. Quindi sono delle persone che non sono più così coinvolti negli oggetti di essence, nella pursuit, l'inseguimento dei vari oggetti sensoriali, della soddisfazione tramite gli oggetti esterni, ma che si è girata verso l'interno, ok? E incomincia a osservare, a sviluppare la consapevolezza della propria attività mentale per poter trasformarla, ok? Quindi si dovrebbe essere in grado di riconoscere piano piano, con lo studio eccetera, quali sono le attività mentali da adottare, da quali sono le attività mentali da abbandonare, ok? Quindi tramite i vari fattori mentali che accompagnano le coscienze principali, sono 51, abbiamo 6 afflizioni radice, 20 afflizioni secondarie che sono oggetto di abbandono, e abbiamo 11 fattori mentali virtuosi che sono oggetto di sviluppo, di incremento. Quindi quando un'azione è virtuale, allora le azioni sono azioni di corpo, parole e di mente, si chiamano le tre porte, perché sono le porte dell'attività. Quindi quando un'azione di corpo, parole e mente è concomitante, in concomitanza o motivata, okay, da un fattore mentale non virtuoso, l'azione è non virtuosa. Quando invece l'attività fisica e verbale è accompagnata da un fattore mentale virtuoso, allora l'azione è virtuosa. Ma non c'è il pericolo che il nostro ego ci tragga in inganno? Si cerca sempre di ingannarci, però bisogna essere piano piano, con la saggezza, con lo sviluppo della comprensione, siamo sempre più in grado di smontare i suoi meccanismi e di puntarlo. Quindi però è perversa la cosa, okay? Però diciamo per esempio, se c'è dopo diventa quasi meccanico, nel senso che se c'è della versione è necessariamente non virtuoso, quindi si finisce qui. Sì, un'azione fisica, verbale, è motivata dall'avversione, risentimento, belligeranza, collera. Questa è non virtuosa in assoluto. Okay? Dopo si è motivata dalla gelosia, si è motivata dall'invidia, si è motivata dall'orgoglio, si è motivata dalla brama, si è motivato dall'attaccamento, okay? Si è motivato... automaticamente è non virtù. Se invece è motivato, un'azione motivata dalla fede, per esempio, okay? O dall'altruismo, dall'amore, dalla compassione, dal desiderio di essere di beneficio agli altri, questa è virtù. Quindi in breve, facciamola breve, ok? Sì, un'azione è virtuosa, è in generale un'azione altruistica. Sì, è non virtù, è accompagnata da afflizione mentale come la brama, come l'avversione, eccetera. In generale noi abbiamo 3-4 grossi problemi, okay? Che sono l'attaccamento, l'avversione e l'orgoglio. Poi possiamo anche aggiungere l'invidia. Okay. Quindi bisogna essere consapevole di qual è l'attività mentale che abbiamo. Okay. Quindi sì, è concomitante con questo, allora è non virtù. Quindi va neutralizzata la sera. Grazie. Prego. Ok, quindi questo era, in quel modo si conclude questa sezione su allo sviluppare una consapevolezza della morte e dell'impermanenza. Abbiamo fatto anche una piccola discussione su che presenta in grandi linee il processo, ciò che accade al momento della morte dal punto di vista del sutra. Abbiamo anche leggermente introdotto il punto di vista del tantra con queste varie apparenze di soluzione e abbiamo anche visto insieme cosa si potrebbe fare da stasera in poi per fare in modo che quando siamo confrontati alla partenza abbiamo qualcosa da applicare, qualcosa da mettere in pratica, anche se facciamo solo questo, nel senso se anche tutta la giornata è Las Vegas, ok? Però se la sera facciamo questo è fantastico, perché al momento della morte saremo in grado di assicurarsi che le cose vadano bene. E vi dico, sono 10 minuti, quindi prendete 10 minuti nella vostra giornata per fare qualcosa che è in grado di garantirvi esperienze di felicità futura, ok? Quindi questo è proprio, cioè, è a quel livello è sopravvivenza, eh? Cioè lì siamo a livelli di sopravvivenza. Ci sono delle domande? Sì, due. Scusi, vai. Ha parlato di Bodh Gaya in relazione allo stato intravenio. Sì. Mi può spiegare il video? Stavo dicendo che era nel contesto dell'essere dello stato intermedio, che abbiamo visto che ha un corpo molto sottile, mentale, fatto di... non è fatto di materia grossolana, quindi non è ostruito. Quasi, una cosa così, sì. Quindi non è, quindi va attraverso i muri, montagne, eccetera. Quindi sono solo due cose fanno ostruzione: il grembo della madre, qui dove prendere rinascita, ok? E Bodh Gaya. Bodh Gaya che è il posto dove tutti i Buddha dei tre tempi otterranno l'illuminazione. È un posto particolare, quindi qui sembrerebbe che qui c'è ostruzione anche per l'essere dello stato intermedio, nel senso c'è qualcosa, tutto lì. Dunque, prima hai detto che quando gettiamo un seme karmico in realtà poi questo non può fare a meno di svilupparsi, di evolversi e portare effetti positivi e negativi, poi però abbiamo visto che si possono in realtà neutralizzare in qualche modo questi effetti. Sì. Cosa succede? Il karma in qualche modo attutito si manifesta in forma meno violenta? Per esempio, allora questo dipende dalla nostra capacità di purificazione, quindi la nostra capacità di concentrazione, l'intensità. Questo allora il livello o il grado di purificazione del karma negativo dipende della potenza di questi quattro poteri opponenti, della forza. Quindi più abbiamo concentrazione, più il rifugio è intenso, più la mente di compassione di bodhicitta è intensa, più il rimorso è intenso, per esempio la nostra comprensione della vacuità è giusta e siamo in grado di dimorare un po' di tempo in questa cosa, allora più la purificazione si opera, no? Allora possiamo arrivare a livelli di purificazione dove neanche il minimo sofferenza viene sperimentata, ok? Però per questo penso che bisogna avere delle buone spalle, ok? Almeno quello che possiamo fare è che invece che il karma viene sperimentato come che abbia la capacità di proiettare una rinascita dopo questa vita, si sperimenta come un disagio in questa vita. Per esempio una malattia, un problema, anche delle cose nei trattati dicono che per le persone che sono dei praticanti, quindi coinvolti nelle pratiche di purificazione, eccetera, anche l'esperienza di un mal di testa è la maturazione di un karma negativo che viene sperimentato in quel modo. Viene anche detto che il proprio lama, dovuto alla fede del discepolo, è in grado di far maturare il karma negativo all'interno dei sogni, come incubi. Okay? Quindi delle maturazioni così leggere. Quindi invece di sperimentare un'esistenza di sofferenza, si sperimenta una malattia in questa vita, o un disagio in questa vita, momentaneo. Questa è una possibilità di purificazione. Sì, in generale si tratta di questo. Prego. Ci siamo? No, io ci vorrei farti delle domande, ma sono diverse da me. Diverse da questo? Sono diverse da questo argomento che c'è. Allora ci teniamo all'argomento, perché questo è, stiamo studiando un testo. Ti posso domandarti altro. Quindi ho domandato una cosa su un male di padre. Alla fine ti fai la tua domanda. Ti lascio dello spazio dopo, va bene? Prego. In sintesi, un'assistenza a uno che muore, quello che ho fatto io è l'aiuto di portare la mente verso un atteggiamento positivo che ha avuto durante la vita. Sì. Quanto dura questo momento della morte? Voglio dire, io che assisto il morente, quanto sto vicino a lui per dire che posso abbandonare il corpo e lui non c'è? Ok, allora di solito quando la persona sta effettivamente andando si vede questa cosa, no? Io non ho grande esperienza, mi è capitato una volta di essere vicino a una persona e si vede che sta... si vede nei giorni precedenti, si vede anche che il suo stato sta peggiorando, poi quando sta per morire si capisce anche, quindi a quel momento, che è un momento molto delicato, anche i giorni, tutta la giornata, tutti i giorni presenti sono momenti molto delicati, quindi bisogna essere molto, fare attenzione anche alla propria mente, perché la persona che sta morendo è molto, percepisce molto le cose, ok? Quindi allora a quel momento aiutare la persona quindi a manifestare questi stati di mente molto virtuoso, pensare a delle cose molto altruistiche, no? Queste cose. E poi si vede che la persona rende il suo ultimo respiro. Si vede, questo nel caso di un processo di morte naturale, che poi se è una morte tramite un incidente stradale, questa è una cosa completamente diversa. Allora non c'è modo di far nulla. Quindi quando ha finito l'ultimo respiro, okay, è morto, io posso abbandonare il corpo. Allora, di solito questo processo di dissoluzione dura 3 giorni. Quindi una persona normale che muore con un corpo non troppo indebolito dalla malattia, quindi una persona normale che muore di invecchiamento, eccetera, quindi 3 giorni. Per avere tutte queste varie apparenze che abbiamo visto e fare che la coscienza fuoriesce e si manifesta lo stato di 3 giorni. Okay? Quindi normalmente, se la persona è un praticante, quindi tutta la sua vita praticamente si è un praticante del Tantra, dove tutta la sua vita si è esercitato nel riconoscere tutte queste varie apparenze, non si dovrebbe toccare il corpo perché si disturba la meditazione. Sia un praticante del Tantra, questo, non vi parlo di un essere ordinario come noi, ok? Perché per un essere ordinario è diverso, non ha quel potere, non è in grado di mantenere quel livello di meditazione. Ma i yogi, loro stanno meditando, quindi tutto il processo, e quando manifestano la mente di chiara luce sono in grado, perché si sono esercitati tutta la loro vita, in grado con questa mente molto sottile, non concettuale, della mente di chiara luce, di andare a meditare sulla vacuità di essenza intrinseca. Quindi disturbare le persone di questo calibro è rovinare una pratica intera, è una vita intera di pratica. Okay? Quindi queste persone sono dei grandi yogi, sono anche capaci di dimorare anche a lungo in queste menti di chiara luce. Geshe Jampa Gyaltso, cioè il mio maestro, il nostro maestro qui ai residenti, è rimasto una settimana in stato di chiara luce. Quindi ci sono stati questi 3 giorni più una settimana dove si vede che il corpo è sempre luminoso, che c'è sempre un livello di calore a livello del cuore e non entra in stati di decomposizione. Quando la mente esce si incomincia il processo di decomposizione del corpo, quindi gli odori eccetera, però per più di 7 giorni niente odore. Quindi sono anche per esempio il tutore di Sua Santità il Dalai Lama, il precedente Ling Rinpoche, è rimasto 14 giorni in chiara luce. E certe persone quando entravano nella sua stanza potevano anche o sentire del profumo o anche o udire anche dei suoni strani, dei suoni piacevoli. Cosa molto, molto particolare. Quindi una persona invece che non ha fatto queste pratiche, io a mio papà, per esempio, gli ho dato la mano quando moriva, ma io non avevo fatto nessuna cultura, nessuna pratica, e poi quando è espirato gli ho poggiato il braccio. Certo. Ma mi era venuto spontaneo così, però non dovrebbe essere, non dovremmo tenerlo per mano oppure... No, va bene, cioè... normalmente il corpo dopo non va, quando accompagnare il morente tenendo questo non è un problema, dopo e dopo non si dovrebbe toccare, perché quando incomincia questo processo di dissoluzione il posto dove il calore può assorbirsi o il posto dove la coscienza può uscire può essere influenzato dal muovere il corpo. Quindi di solito quando è possibile, però qui in Occidente è molto difficile, perché non c'è questa cultura. È una persona che emette l'ultimo respiro, questo è il momento della morte, e a quel punto c'è la sanità, tutte queste cose, quindi è molto difficile. Quindi però vi dico, per noi essere ordinari, tutto si gioca al momento, prima che questa discriminazione grossolana cessa, no? E che la mente entra, si fissa e dopo entra in uno stato etico neutro. Quindi ciò che è importante è prima l'ultimo respiro. Questo è veramente il momento importante. Grazie. Sì. A proposito del processo del morire, io volevo sapere qualcosa riguardo alle cosiddette esperienze di premorte, i ritornati in vita, perché ho conoscenza diretta di almeno 2 persone che in seguito a incidenti stradali e coma, poi sono ritornati e proclamano di avere poteri vari, chiaroveggenza. Non saprei dire, tutto è possibile, no. Non so, saprei dirti. Non sono esperta in queste cose. Questa cosa bianca che si vede. Questo è possibile, che è diverso, questo penso che è una presentazione, qualcosa di diverso. Poi il coma non è un'esperienza di ravvicinamento alla morte, non lo è, qualcosa di diverso. Diverso. Quindi non so queste cose, non è con me che devi discutere queste cose. Signora. Questo processo di morte che lei ci ha illustrato vale anche per i suicidi, Allora, quando la morte è violenta, allora il suicidio può essere fatto anche in un modo più lento. Quando si parla di morte violenta si parla, per esempio, di incidenti stradali o dell'utilizzo di armi, quel tipo di cose. Quindi il processo, quel processo è sempre presente, solo che è veloce. Invece di mettere 3 giorni, cioè la cosa è molto veloce, tutte queste dissoluzioni sono molto veloci. Però la velocità implica l'incapacità, anche se la persona sia addestrata, di fare qualcosa. Cioè di mantenere la consapevolezza. Quindi generare un'attitudine virtuosa, o anche se esercitarci è esercitato a riconoscere questi vari stadi, di poter meditarci su. Perché la persona dovrebbe essere, c'è tutta una serie di addestramenti, spero che avrete la fortuna di continuare il vostro studio, ricerca e pratica, e aver dopo più avanti accesso a questi livelli di insegnamento, perché sono estremamente interessanti. Quindi questo dipende da voi. Sì. L'essere intermedio, la? L'essere del bardo, praticamente intermedio, abbiamo detto che 40, massimo 49 giorni. Esatto. Ma in questi 49 giorni può dirigere la sua... Sì, perché ogni 7 giorni c'è una piccola morte. L'essere dello stadio intermedio muore ogni 7 giorni. All'interno di questo processo di morte, ogni 7 giorni, un karma nuovo può essere riattivato. Quindi l'essere può morire all'interno dello stadio intermedio, per esempio degli esseri umani, e avere il suo karma può essere cambiato, e il suo karma può cambiare, e avere uno stadio intermedio degli esseri, per esempio, dei Deva, del regno del desiderio. Ok? Allora, ecco perché, per esempio, quando c'è qualcuno che muore, che conosciamo, eccetera, si fanno per 49 giorni, si vanno nei monasteri, ok, o anche i propri vicini, per 49 giorni fanno delle pratiche. O vanno nei monasteri e sponsorizzano delle pugge, queste rituali di offerte, dove l'energia virtuosa va indirizzata verso per il beneficio della persona dello stato intermedio. Scusate? Alcuni mantra per il morto che... Ci sono anche delle cose del genere, sì sì. Quello che voglio illustrare è la capacità che c'è, è possibile far qualcosa per l'essere dello stato intermedio, per aiutare, ok? Poi di solito si può utilizzare anche sui propri beni, il denaro, i propri possedimenti, e offrirle, praticare la generosità con queste cose, perché c'è a un livello sottile c'è comunque un collegamento con la persona, per esempio nel suo nome, utilizzando il suo denaro, fare offerte ai maestri, al sangha, utilizzarlo per pubblicare dei libri di dharma, delle cose del genere, certo. Un sacco di cose può essere fatto. E in quel modo non è che possiamo modificare il karma di una persona, perché il karma di una persona non può essere modificato, ma possiamo modificare le condizioni intorno per far maturare un altro karma. Questo è possibile. Grazie. Prego. Sì. Questo ciclo di morte, di rinascita nel bardo, nei 7 giorni, è possibile che sia anche un altro essere, cioè passare un umano? Non ho capito. Nel ciclo del bardo, quindi ogni 7 giorni c'è la nascita e la morte, no? Mm-hmm. All'interno del bardo, sì, sì. All'interno del bardo, sempre umano, può essere anche... No, come dicevo, no? O per esempio, come la persona ha attualizzato, ha attivato delle potenzialità per prendere una rinascita come essere umano, entra il bardo degli esseri umani. Poi è possibile che il suo karma cambia all'interno del bardo, e invece di dovuta pratiche, delle preghiere, eccetera, e invece di avere quando muore all'interno del bardo, attivare un karma per avere dopo il bardo di un essere dei rami superiori a quello umano, per esempio. Questo è possibile, sì, quindi ci può essere un cambiamento. No, io dicevo tipo cambiamento entro 7 giorni uno, poi 7 giorni un altro, possibile o solo rimane solo un cambio? Beh, un cambio basta. Di solito il problema è quando certi lama ci dicono rinascita inferiore nel caso di questa persona. Allora, bom, bom, si fa i rituali, eccetera, e si riesce a farlo tenere una preziosa una vita umana. E lì la storia, siamo contenti con questo. Okay. Quindi questo, cioè, va bene essere... Nel momento della scelta della rinascita è più forte la forza del desiderio o la forza del karma? La scelta della rinascita, non abbiamo nessuna scelta, signora, sulla rinascita. Nessuna. Non possiamo dirigerci, no? Verso i genitori che ci sono. No, no, ecco perché abbiamo presentato questi generazioni di una mente virtuosa. Per almeno assicurarsi che qualcosa di positivo fuoriesce di tutto questo. Ma noi, signora, siamo nell'esistenza ciclica, quindi significa che siamo sotto il controllo, sotto il controllo delle azioni e delle afflizioni. Però scegliamo i genitori che ci sono più affini. Non è che scegliamo, è che spinti dal karma siamo attratti. Ok? Siamo attratti. È sempre essere attratto significa non aver controllo. L'attrazione è una mancanza di controllo, giusto? Certo. Mm-hmm. Quindi cioè, siamo quasi a fine. La sua domanda? Vai. No, la domanda che posso fare? Sì. È un po' difficile farla. Comunque, insomma, il problema è che sto salendo. Io vengo dalla Sede Arcari. Quindi vengo da... buddismo giapponese, ho praticato tanti tanti tanti anni. Mm-hmm. Vabbè, il buddismo per fede sicuramente lo conosceranno di sicuro, no? Cioè, ho sentito parlare. L'essenza della legge mistica, che veramente anche in un universo c'è la legge mistica. La? La legge mistica per noi. Cioè prendono per noi il titolo del sutra del loto, che non so mi fare. Non so se è il sutra del cuore. No, è un altro. Anche la tradizione è diversa. Posto. Comunque, insomma, meno male, tutto l'universo è formato di legge mistica. Tutto l'universo per noi è formato di mio e Dio. Cioè, praticamente la recitazione del mantra automaticamente dovrebbe portare all'illuminazione. Però ci sono problemi. Che invece di portare all'illuminazione a me mi ha scombinato la vita. Ha fatto un macello. Macello perché, insomma, non era proprio una bene, ho voluto toccarci la malattia. La mia cugina è morta, insomma, non è che sia stato un bel lavoro. Vabbè, la spiegazione, diciamo, che loro danno è che, in questo caso, il demone del sesto cielo impedisce di ottenere illuminazioni, quindi si avvengono di fuori tre ostacoli e un altro demone. Poi c'è tutta una filosofia particolare che loro prendono da... in giapponese Nagacharyuna, non so come lo definire. Nagajuna, certo. Nagacharyuna giapponese. Da Tientai e poi da altri due o tre maestri. E danno la spiegazione che praticamente il rapporto tra l'essere senziente e l'universo si rompe in un qualche modo. Questo dovrebbe rimettere a ritmo, ma nel caso mio non è che va rimessa a ritmo. Io ho fatto un malanno. Non ne va più una bene, sono nelle feste di noi. E allora l'altro giorno, siccome faccio dei lavori portuali, e insomma è successo un insieme di cose, mi ha rifatto rifletto, ho detto che sarà meglio che vada là, perché insomma qui ci deve essere dentro di trascrizione da qualche parte, prima di finire sotto un forchifero da 80 tonnellate, e sarà meglio vada a sentire cosa posso fare per cercare la maniera di rimettere a ritmo con l'universo, perché non ci sono più. Mi succede delle cose che non è possibile, e sono 20 anni che sto combattendo con questa cosa, poi non so smettere da niente. Ha fatto come un vaso di Pandora, recitando è uscito fuori tutto il karma negativo, ma c'era una dietro l'altra, vedere che mai, dandosi la patta. Io ho capito che non deve essere attaccato ai beni materiali, a tutto ciò che succede, però insomma un minimo, insomma, niente. Quindi no, non che sono andato un buco, cioè a livello economico, è successo dei malanni, a livello proprio di questa cosa, che mi dà da pensare, perché insomma, bene o male, poi va di finire che è toccata a loro e poi tocca a me, insomma, io avvicino alla morte, ci vorrei avvicinare un po' più là, certo. E se qui siamo andati fuori di ritmo, mi faccio la cosa tutti i Allora, sì, questo sono, quindi sì, io sono poco in grado di dire cosa sta succedendo a livello del karma, eccetera. Quindi quello che dovrei fare è cercare di vedere dei maestri autentici, quindi anche all'interno della nostra tradizione, per esempio, di cercare di incontrare ai maestri autentici che passano in questo centro, che residono qui, di spiegare, di andare con il traduttore, di spiegare veramente qual è la fonte del problema e cosa sta succedendo, eccetera. E allora è possibile che, avendo certe qualità, possano dare dei consigli che sono effettivamente in grado di spiegare questa cosa. Ma io è completamente al di là delle mie capacità di dirle cosa devi fare, cosa non devi fare, eccetera. Io posso presentare degli insegnamenti in un modo generale, ma non posso dire a una persona specificamente cosa deve fare, cosa non deve fare, perché non ho accesso a questa parte nascosta. Teoricamente, cioè, ora è per fare la filosofia, no? Al centro del cristianesimo, per esempio, c'è il concetto del logos. Il logos è praticamente la causa prima dell'universo che si manifesta. Quando ti hai detto l'essere etereo, dove esiste praticamente? Dov'è che esiste? Per noi buddisti esiste, per noi nella nostra tradizione esiste in uno stato intermedio che noi definiamo Ku. Ku praticamente è il vuoto che non è vuoto. Sì, no, questo è un'altra cosa, questo è il concetto della vacuità. Dove esiste. Quindi il logos o leggerissica dei buddisti o in realtà sono la stessa cosa. Quindi fondamentalmente a livello di fede ci credo. Però mi ha smosso un macello che... Sì, ma mi sa che abbiamo degli approcci diversi, mi sa, per spiegare le cose. Quindi, se si potesse fare magari un mantra per rimettermi a ritmo con l'universo, qualcosa del genere, una meditazione particolare, io nella mia comprensione non c'è essere disarmonia con l'universo, essere in armonia con l'universo significa adottare la legge di causa effetto, quindi in non compiere azioni non virtuose e compiere azioni virtuose, questo è beneficiare gli altri, questo è essere in certo modo essere in armonia con l'universo, perché essere in armonia con le cause che producono la felicità, capito? In questo senso. Però facendo delle pratiche, ma questo è anche osservato all'interno della nostra tradizione, che facendo delle pratiche è possibile che del karma negativo matura, come dicevo prima, no? È possibile che con fede e devozione, eccetera, hai recitato questo mantra in un modo molto intenso, eccetera, e delle potenzialità di sofferenza ti sono maturate adesso invece di maturarti nelle vite future. Quindi puoi vedere la cosa anche sotto quest'angolo, puoi pensare che tutto quello che stai sperimentando è una grande purificazione di potenzialità che ti potevano proiettare alla fine di questa vita in reami sfortunati. Perché e questo è anche percepito all'interno, io ho visto anche degli studenti o dei praticanti che a momento della loro vita hanno attraversato delle grandi difficoltà, sperimentato delle grandi sofferenze e ostacoli, e effettivamente il Lama diceva: guarda che questo karma, se non ti era maturato adesso, ti maturava nella prossima vita. Quindi questo è possibile, che è questo che è accaduto. Quindi un'esperienza, di solito noi abbiamo, quando sperimentiamo felicità siamo contenti, quando esperiamo sofferenza non siamo contenti e perdiamo anche la nostra fede, ma non dovrebbe essere così, perché l'esperienza di sofferenza, no? è noi che abbiamo creato le cause, quindi il fatto che il buddismo in generale, la pratica spirituale, è per mettersi in contatto con al minimo la sofferenza, la felicità nella prossima vita. Quindi sì, dovuta a una pratica genuina, delle esperienze di sofferenza maturano in questa vita, è una cosa normale. Quindi scusami, per assurdo dovremmo in qualche modo gioire. Esatto. No? Il praticante, per esempio, se prendiamo i Kadampa, che sono, cioè, la cima dei praticanti, no? Loro, quando sperimentano difficoltà, sono contenti e fanno anche rituali particolari dove richiedono dei ostacoli, perché è solo in quel modo che la mente cresce. Quando tutto va bene, se tutto va bene, non esiste neanche la pratica. Pratica per che cosa? Tutto va bene. Quindi invece quando ci sono difficoltà, automaticamente la persona deve produrre uno sforzo, deve sorpassarsi in un certo modo. Quindi nella pratica spirituale non pensate che perché vi avvicinate al Dharma o al Buddhismo tutte le cose si mettono ad andare bene. Piano piano andranno bene, però ci saranno, e questo è inevitabile, dei momenti di difficoltà. Okay? Dei momenti di difficoltà e di sofferenza, ma questo è il nostro karma negativo che matura e matura in questa vita, invece come piccola sofferenza in questa vita o grande sofferenza in questa vita, invece di ancora più grande sofferenza nelle vite future. Quindi si estinguono, diciamo, le cause, no? Esatto, il karma in quel modo si estingue, perché il karma, una volta che il karma è maturato, è finito, non può più essere sperimentato. Quindi quello che sta accadendo, no, è possibile, con la mia limitatezza, è quello che capisco, no, perché l'ho osservato in altre persone, ne ho fatto anche l'esperienza di queste cose, che si fa una pratica genuina e poi invece esperienze di sofferenza arrivano. Però dobbiamo cercare di pensare che in quel modo ci purifichiamo del karma negativo, dobbiamo prenderlo come una purificazione. Però quando abbiamo il naso dentro è molto difficile, molto difficile. E allora, scusa, le puja che vengono richieste molto spesso quando delle persone stanno male, no? Allora vanno a fidarsi ai lama e i lama gli danno una serie di puja da sì, fare. Cioè per evitare a muovere delle nuove condizioni, per fare in modo che un'altra karma sta maturando. Però una volta che il karma è incominciato a maturare non si può fare niente, bisogna attraversarlo. Ecco, ma non è anche egoismo, diciamo, chiedere le puce, perché a un certo punto uno dice io lo voglio sperimentare tutto il karma fino alla fine. Ma questo è cioè, il karma, ti dicevo, no? Una volta che è incominciato a maturare non lo puoi, cioè te lo devi mangiare. Si può fare qualcosa prima che matura il karma, quindi ci può essere una serie di karma negativi una dopo l'altro, ok? Però diciamo quando uno ha incominciato a maturare non c'è più niente da fare, si può fare qualcosa prima. Ok, allora le puce che vengono richieste sono solo per non andare su altri piani. Per esempio. Okay. Però per me, per quello lì, è andato. Grazie. Per esempio. Quindi questo è quello che ho sentito. Ok, quindi, non so, io ho il consiglio di andare a incontrare una guida spirituale autentico con delle qualità che è in grado di capire, però nella mia comprensione è questo. No, ho capito, non ce ne fa l'espiazione. E questo è, sono le proprie potenzialità negative che stanno maturando, ok? Però bisogna pensare che è impermanente, che okay? Come dicevo l'altra volta, dopo la sofferenza c'è felicità, dopo la felicità c'è la sofferenza. Quindi tutto è impermanente. Dopo il temporale c'è il sole, dopo il sole c'è il temporale, tutto ciclico. Quindi pensiamo, quando sperimentiamo sia difficoltà che esperienza di felicità, pensiamo sempre che comunque non c'è bisogno di essere demoralizzati, perché comunque ha una fine. E comunque in quel modo stiamo purificando il proprio continuo di potenziale di sofferenza. Dicevo che si non maturavano in quel modo perché il karma è così, no? Esponenziale, nel senso che col tempo si sviluppa, la sua potenzialità si sviluppa. Non è che per esempio si compie l'azione di uccidere un essere umano e si sperimenta il risultato di aver uccidere un essere umano, no. Dopo un giorno è il karma di aver ucciso 2, dopo 3 giorni 4, dopo 8, 16, 32. Quindi il karma, lo vedremo quando lo faremo insieme, ha questo effetto esponenziale. Quindi una piccola, ecco perché neanche la minima non virtù dovrebbe essere evitata, perché anche una piccola non virtù col tempo diventa una grande esperienza di sofferenza. è una piccola virtù. Piccola virtù col tempo può diventare una grande esperienza di felicità per lungo tempo. Quindi, scusa, nel suo caso allora dovrebbe essere una buona notizia per lui, il fatto che sta sperimentando adesso. Questo dipende della, della nostra, cioè delle nostre capacità. Ci sono dei praticanti che ci sarebbe la Mazzoppa direbbe fantastico. La Mazzoppa direbbe fantastico, ti devi rallegrare di quello che ti sta accadendo. Perché questo significa che nella vita futura felicità. E questo ci lo dice anche il nostro maestro, però capito. Ma cosa sei dentro fino lì dentro, sì, che sì. Va tutta la rovescia e che sa quello che succede. È dura. E anche uno si spaventa anche il gocciolino se chissà. Certo. Uno muore per la buona causa, vabbè. Ma se ti schiacciano per qualcosa. Sì, sì, sì, sì. Ma questo non è perché non è la pratica che ti crea sofferenza, no? Cioè, la pratica sia genuina, ti crea felicità. E il problema è che adesso. Ti è maturata questa cosa, ma la causa profonda sono le nostre azioni passate. Che karma pesante non viene spiegato. Esatto. Se non attivare. Quindi devi pensare che come quando andiamo da, dobbiamo per esempio il problema i denti, andiamo dal dentista, è molto spiacevole l'esperienza, però è un'esperienza spiacevole per mezz'ora, un'ora. Invece di avere più problemi, più intensi nel futuro. Grazie. Prego. Ok, quindi ci fermiamo qui per stasera e ci vediamo, qualche giorno siamo? Domenica? Mercoledì, alle 9. Quindi facciamo queste dediche, generiamo tutta l'energia virtuosa che abbiamo accumulato insieme. La dedichiamo alla felicità di tutti gli esseri senzienti finché noi molto velocemente otteniamo lo stato di Buddha e diventiamo anche una fonte di felicità per gli altri. Lo dedichiamo alla lunga vita dei maestri, che i loro desideri si realizzano, e finché il Dharma si mantiene, che la fonte di felicità si mantiene per lungo senza degenerare in questa vita, in questa terra. Ngewa di nyodo da lama sangye drungyo ne androwa jidya maloba deye salagoba jo janjo zemjo rinpoche magye apanam je yuje nyama nyamba nyabayo gone gondu balwa jo Kare rawe korwe chingam de damdam dewa malu juwene Chenre jiwan tenzin gyatso ye ashabe shinde pandu tenju ji Daso chinye sambe gyawadi damdam drowa guna gambe dan Jamba jitsu lozan rabayi tembe nyambo rindu zelje jo Grazie. Mercoledì. Ah sì, è vero, c'è una differenza, sì. Quindi tenetevi quello che è scritto in bacheca, okay. Tenetevi a questo.